and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Ci siamo, un'altra super puntatona di I Love Italy. Scusate per la voce, ma sono sempre un po' costipato con questi virus influenzali. I Love Italy, il rotocalco di 15 minuti in onda su Radio Miami International, WRM, alla conduzione qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Anzitutto, in apertura, ricordiamo che ci potete scrivere attraverso la nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere la vostra cartolina QSL, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it, visitare anche il sito di Double RMI, che è il seguente www.rmi.net. Lì è possibile anche fare un rapporto di ricezione multimediale. Poi abbiamo l'indirizzo postale, per chi dovrà scrivere lettere o cartoline come si faceva una volta, potete indirizzare la vostra corrispondenza a Double RMI, PO Box 5268 52 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì scrivete direttamente alla redazione di Radio Miami International e in particolare al nostro caro Jeff White. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Esatto, questo era il nostro jingle che ogni tanto sentite in sottofondo, che lanciamo per invitarvi appunto a visitare il nostro sito o semplicemente a inviare un rapporto di ricezione. In queste settimane ho ricevuto due bei rapporti di ricezione, quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziare due persone che ci hanno scritto, sono stati così carini. Giuliano, che ci scrive per l'appunto dalla bella e vicina Svizzera. Io ho avuto occasione appunto nelle vacanze natalizie di vedere la bella Berna, quindi mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tanto la Svizzera che ovviamente tornerò. Giuliano P ci scrive per l'appunto dalla Svizzera e ci scrive la seguente mail. Buongiorno Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su The Voice of Italy via Double RMI. In effetti la chiusura delle onde medie, la RAI, è una grave perdita e penso che sia un errore strategico smantellare le reti di trasmissione. Purtroppo non è un evento solo italiano, ti allego un rapporto di ascolto che spero vorrai confermare con una QSL del programma. Ti ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere una tua risposta. Gentilissimo veramente il nostro amico che ci scriveva appunto da Massagno, dalla Svizzera. Tra le altre cose, il nostro Giuliano è stato veramente preciso, ci ha mandato sia il file che certifica l'ascolto della nostra trasmissione, sia anche un PDF perfetto, proprio redatto benissimo, dove ci segnala un simpo 45444 e riguarda per l'appunto la nostra frequenza po' se la trovo, i 15.770 kHz. Gentile Andrea, con piacere che ti invio il rapporto di ricezione dopo aver ascoltato la tua stazione sulla frequenza 15.750 kHz, ascolto del 21 gennaio 2023 dalle ore 21 sino alle ore 21.15 UTC. Poi entra nel dettaglio con l'identificativo della lingua italiana, con quello che ho detto, e mi ha mandato anche proprio un rapporto dettagliatissimo, la sua posizione, con che cosa ci ha ricevuto, i saluti, il suo indirizzo. Non mancherò, caro amico Giuliano, nell'inviarti la cartolina QSL personalizzata proprio di I Love Italy. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Tra le altre cose, colgo l'occasione ancora una volta di ringraziarvi per averci inviato dei rapporti di ricezione che giro anche al nostro caro Jeff White. Ora dalla bella Svizzera ci spostiamo alla bella Cina. Rapporto di ricezione di I Love Italy dalla Cina. Ci scrive un amico cinese, Lu, Ding Lu, e ci scrive quanto segue. Cara WRMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma dalle 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. Vorrei chiedere una QSL cartacea, non email, di Radio Miami e I Love Italy. Se ci sono souvenir con logo di Radio Miami, I Love Italy, sarei ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente. Orario di ricezione 28 gennaio, come ho detto in precedenza, dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza di ricezione 15.770 kHz italiano. Poi anche lui ci segnala l'apparecchiatura con cui ci ha ascoltato, la città appunto dove ci ascolta, Jiangwing, non so se è giusto, me ne scuso. Anche lui la registrazione dell'MP3 dove certifica proprio l'ascolto di I Love Italy e ci regala un Simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di Radio Miami e I Love Italy buona salute e tutto il meglio. Auguro anche a Radio Miami e I Love Italy di migliorare sempre di più con l'anno lunare cinese del coniglio del 2023. Vorrei augurare un felice capodanno cinese, vi auguro una buona salute e tutto il meglio per il nuovo anno. Di seguito le informazioni del contatto con il suo telefono, codice postale, indirizzo per inviare, ovviamente come ha chiesto l'amico dalla Cina, appunto l'amico dalla Cina Ding Lun, la QSL proprio cartacea, non quella che inviano la maggior parte delle stazioni che vi mandano appunto la QSL tramite mail. Poi c'è stato uno scambio di email sempre con l'amico cinese dove io sottolineavo l'importanza della medicina cinese che ha una storia millenaria e che purtroppo in Italia, soprattutto negli ospedali, non viene impiegata. Secondo me è un grosso errore perché l'agopuntura potrebbe essere affiancata alla cosiddetta medicina europea. Poi l'agopuntura non ha controindicazioni, quindi non capisco il motivo per cui ci siano dei medici che lavorano all'ASL e poi da medici privati svolgono questa pratica a pagamento ed è molto costosa, quando si potrebbe anche provare a abbinarla negli ospedali attraverso la mutua, che ricordiamo è una cosa molto bella che permette a tutti di avere una cura sicura in ospedale senza dover fare assicurazioni e così via. Anche se avete problemi economici, anche se vi trovate in mezzo a una strada, ricordate che se venite in Italia verrete curati senza pagare soldi, senza avere assicurazioni e così via. Dicevo, c'è stato uno scambio di email, poi mi scriveva ancora l'amico cinese: è stato un piacere ricevere la sua lettera, così gentile da parte sua di prima mattina, ora cinese. Grazie per le belle parole sulla nostra Cina, sul suo popolo, ma la Repubblica Italiana è anche un paese molto bello, ricco di storia, cultura, come l'opera italiana, le città dell'acqua, Roma e Venezia, Napoli e altre città storiche e culturali, oltre ai piatti di pizza e pasta che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Ho visto molti video di viaggi di blogger cinesi in Italia e ho percepito l'ospitalità degli italiani. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e sperimentare di persona. Sono sicura che sarebbe un viaggio meraviglioso. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi auguro una lunga e dura amicizia. Continuerò a sostenere i vostri programmi. Oggi è la festa tradizionale cinese delle lanterne. Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici una felice festa delle lanterne. Ding Lun. Quindi ringraziamo questo amico dalla Cina, Ding Lun, e ringraziamo anche il nostro amico dalla Svizzera, il nostro appunto Giuliano. Vado a recuperare la sua email in tempo reale. Giuliano, eccolo qua, che ci scriveva dalla Svizzera italiana, Massagno dal Canton Ticino. Quindi mi scuso ancora Giuliano se non ho pronunciato correttamente il tuo paese. Grazie anche a te, perfetto il tuo rapporto di ricezione, dettagliatissimo, quindi prendiamo tranquillamente in considerazione tutte e due le mail, perché sono corrette, hanno ascoltato e hanno certificato con l'MP3 proprio l'ascolto di I Love Italy. Mancano veramente pochi minuti al termine, cari amici, al termine di I Love Italy. I fatti principali accaduti in Italia li sapete, per dire che comunque c'è anche gente che all'estero ci considera anche per i nostri beni culturali, la nostra cultura, il nostro cibo e così via. Venite in Italia che vi troverete bene. E una cosa importante che partirà in queste settimane, ovviamente, come non ricordarci del Festival della Canzone Italiana. Festival della Canzone Italiana che prende avvio appunto in questo mese. Io preferivo quello di un tempo, però non si può essere, diciamo così, degli eterni sognatori, bisogna vivere anche al presente. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Continuate pure a scriverci, avete sentito il sito per poter inviare i vostri rapporti di ricezione. Intanto abbiamo ricevuto un messaggino WhatsApp che magari vedremo se è a tema con la nostra trasmissione. Vi dicevo, continuate pure a scriverci per richiedere le vostre QSL o semplicemente per interagire con il vostro Andrea. Noi siamo arrivati in fondo e io ringrazio ancora una volta Jeff White per la gentile ospitalità. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Buon proseguimento a tutti. Ladies and gentlemen. Ciao da Andrea. E un saluto ovviamente a Jeff White. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy, yeah.